Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Codesto fu un momento epico per la nostra trasmissione. Qualche anno fa parlammo dei film western all'italiana, i nostri ascoltatori si produssero nel riprodurre con la bocca l'onomatopea degli spari nei mitici film di Sergio Leone. Non sapendolo, abbiamo allora gettato le basi per una nuova professione, il rumorista di armi da fuoco nei film e nelle fiction italiane. Sì, perché la notizia, che poi oggi in qualche maniera riporteremo nella giusta dimensione, che sta rimbalzando nel web, destando grande preoccupazione, ma allo stesso tempo anche grande ilarità, che c'è un allarme da parte dell'ANICA, che è l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, perché è scaduta la proroga che era stata concessa 3 anni fa riguardo l'uso e la detenzione delle armi da scena, e quindi dovranno rimettere mani su tutte le armi da scena con le quali si girano film e fiction in Italia. Ora, l'arma da scena, per quello che ne so, poi mi sarò corretto e dirò cose sbagliate, deve essere un'arma a tutti gli effetti, vera e propria, con alcune modifiche perché non possa più offendere. Anche perché l'arma è fondamentale in molte fiction, immaginate, da parte, ho citato il western all'italiana, che è un genere vecchio ma rivalutato da Tarantino, quindi improvvisamente è diventato da B-movie un genere nobile, ma immaginate tutti i film, i più fortunati serie che sono state girate in Italia negli ultimi anni, riguardano storie di camorra, di malavita organizzata. Ma immaginate anche i film storici, le rievocazioni della guerra mondiale, in questi giorni si sta parlando di prima guerra mondiale, immaginate anche il moschetto 91 non potrà più essere realisticamente usato dagli attori in una fiction, e non è cosa da poco. L'arma che deve essere usata in una fiction, in un film, deve essere un'arma vera, perché per avere la fiammata, l'espulsione del bossolo, deve essere realistica. Un film girato con 4 soldi, una pellicola girata amatoriale rispetto a una professionale, si vede che usano armi ridicole. Quando in televisione fanno delle cose comiche o girate lì per lì, tanto fa vedere, usano armi giocattolo, riproduzioni inerti, fanno un bottarello che manco si vede, non c'è fiammata, si capisce la finzione. No, devono essere armi vere con alcuni accorgimenti, non diventano più armi a tutti gli effetti, vengono vagliate da una sorta di test che fanno degli armieri, e con questo si può usare e vengono usate nel cinema. Però improvvisamente c'è stato un momento di stallo, cambiano le norme, quindi tutte le armi che venivano usate per girare film non sono più usabili, quindi bisogna fermare la produzione in attesa della riconversione delle armi con le nuove regole, che sembra che però sia una cosa folle che soltanto in Italia ci poniamo questi problemi. Beh, oggi di quello vorremmo parlare. So che è un pubblico appassionato di tutto ciò che è riproduzione del reale, tutto ciò che è fiction, quindi diteci la vostra. Cosa fareste se per assurdo da oggi non ci fossero più film con armi in scena? Vi proporreste come rumoristi? Si userebbero cerbottane, fionde e armi da taglio? Bisognerebbe fare nelle sequenze fondamentali delle sparatorie il gesto tipico che si fa con il pollice e con l'indice, facendo brum con rumore con la bocca. Dite voi. 800 24 00 24. Questo è Giù la testa di Sergio Leone, tanto per farvi capire l'introduzione. Facciamoli sentire anche qualche altro effetto ambito, farvi capire cosa non potremmo più avere se la normativa rimane tale o la legge rimane tale. Ehi, la sua roba! Senta un po'! Vai, Luis! Questo è un film poliziottesco, altro genere inventato in Italia che ebbe e che avrà e che ha tuttora grande eco anche all'estero, viene rivalutato. Andando avanti. Stavo uno, potevi mia moglie, no? È un buon guaglione, però. Questo Questa è la serie TV Gomorra, serie fortunatissima. Improvvisamente ci siamo riscoperti produttori di fiction che suscitano grande interesse all'estero, perché raccontiamo la nostra epica, per quanto nefasta, locale, e alla gente questo interessa, come a noi piace vedere i film di sparatorie o i film che per certi periodi hanno rappresentato momenti di eventi bellici. 800 24 0024. Stefano Balassone, buongiorno. Buongiorno. Stefano Balassone, segretario dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive. Non riesco a dare del lei a Stefano Balassone perché siamo colleghi da 2000 anni. Stefano, dimmi il tuo punto di vista. È realmente un problema, stato un problema così grosso? Qualcosa è cambiato? E come può incidere realisticamente poi nella produzione della fiction italiana questa sorta di cambiamento di normativa rispetto alle armi nei film? Guarda, la notizia più recente e fresca è che ieri sera, ed è una buona notizia, quel termine perentorio che era calato come una ghigliottina, rendendo impossibile l'uso di armi non modificate entro il 6 novembre passato, è stato allungato, noi lo avevamo chiesto, alla fine dell'anno prossimo, alla fine del 2015. Quindi adesso il problema è il seguente: c'è il respiro necessario per mettere le mani sulle norme fin qui di impossibile applicazione. Ecco, cosa chiedevano queste norme nuove? Delle cose piuttosto lambiccate, con termini molto iniziatici, tipo all'esagio, e cose di questo tipo, che sostanzialmente richiedevano di fare interventi quasi di gioielleria su ogni singolo pezzo d'arma di scena italiano, parliamo di 7.000 pezzi, no? Ed è una classica situazione in cui un paio d'anni fa una commissione di esperti di armi si era messa a discutere su come renderle inoffensive reinventandosi il mondo. Lì è chiaro a chiunque che si tratta semplicemente di fare quel che la pratica artigiana fa in tutto il mondo al riguardo, in maniera da non fare gli strani rispetto agli altri paesi. Ecco, come accade? Sono armi, diciamo, a tutti gli effetti. Ma è chiaro, queste sono armi che però ci hanno infilato dentro uno spinotto che impedisce la fuoriuscita di qualsiasi proiettile. E che devono essere realistiche, chiaro, devono essere realistiche, perché i maniaci di armi o i fissati di armi... Ma devono essere realistiche da fuori, non è necessario che siano reali dentro. Certo. E per evitare il rischio che siano reali a tutti gli effetti, basta infilargli una sbarretta di traverso invisibile da fuori, che impedisce l'uscita di qualsiasi corpo offensivo dalla canna dell'arma. Anche perché c'è un momento scenico importante. Nei film, diciamo, d'azione, vedere la mitragliatrice che spelle i bossoli, cadono per terra, sentire lo sparo, è importantissimo, dà il senso del pathos, sennò sarebbe una buffonata. No, ma cioè, appunto, fatta mettendo il pollice e l'indice, a modi sarebbe una sparatoria di tipo allusivo e non di tipo realista. Vabbè, ma andrebbe a farsi benedire tutto, Adesso abbiamo un anno e un paio di mesi ma spero che riusciremo a farlo molto prima. Questa volta il Ministero dell'Interno è stato collaborativo, mentre 3 anni fa, era un po' inciampato nelle proprie scarpe nel fare una... Ma cosa c'è dietro, secondo te, questa sorta di meticolosa mania impiegatizia di mettere le mani su qualcosa? C'è paura che poi queste armi possono essere a loro volta rimesse in un mercato clandestino? Mi sembra un po' difficile. No, guarda, si parte da un presupposto che non si può non condividere, cioè... ci sono delle cose che sono armi sotto ogni aspetto, tranne che c'è un accorgimento che gli impedisce di far del male. Allora, questa è l'arma di scena. Allora, si può capire che chi è preposto alla sicurezza pubblica voglia garantire che le cose siano effettivamente così. E fin qui tutto bene. E infatti avviene in tutto il mondo. Dove scatta la cosa? Quando, come è accaduto anni fa, un pezzo di burocrazia va fuori orbita per conto suo e comincia ad almanaccare su sistemi all'Archimede Pitagorico per rendere le armi italiane ancor più inoffensive di scena italiana ancor più inoffensive di quelle tedesche, francesi o inglesi, e rendendo di fatto impossibile di farle di far di rendendo impossibile di adeguare la realtà a questo schema burocratico. Allora fermiamo solo un secondo, Stefano, già ci sono degli ascoltatori che dimostrano che in realtà poi la percezione del pubblico ha strumenti molto più affinati del burocrate che si applica a questo tipo di materia. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità. È chiaro che ci troviamo di fronte all'ennesima esasperazione legale che ci... Ma lei è del mestiere, Alessandro? No, io faccio qualcosa di simile ma non uguale. Io sono rievocatore storico, noi per abitudine ricostruiamo armi, nel mio caso da taglio, quindi non hanno attinenza con l'argomento in questione. Però il problema è simile. Cioè il ricostruttore storico, io portavo l'esempio di Salvate il soldato Ryan o per esempio di Black Hawk Down, che sono due film bellissimi che vanno oltre. E cosa sarebbe la famosa scena se non ci fosse stato un realismo esasperato proprio lo sbarco in Normandia, senza, assurdo. Senza le armi vere sarebbe un'assurdità. Cioè perderebbe quella valenza di trasmissione non solo di un concetto etico e morale, ma anche storico. Ma poi di ricostruzione di una sensazione di assoluta e totale uscita dal mondo sotto il fuoco di le persone che sbarcavano, certo, è chiaro. Esattamente, non è possibile immaginare che noi per la burocrazia miniamo come al solito quella che dovrebbe essere una delle nostre industrie primarie, cioè il cinema, non ci dimentichiamo Cinecittà, il cinema per noi dovrebbe essere un'industria e noi la stiamo massacrando con l'ennesima legge assurda, come diceva giustamente chi è intervenuto prima di me, un'esasperazione così campata in aria di regole che non hanno nessun senso. Sentiamo Ermanno. Ermanno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Bene, io dico solo una cosa, la butto un po' là, faccio una battuta. Pronto? Sì, l'ascolto. Bene. Faremo come succede adesso con la moda, come succede con tutto il resto, e andiamo in Francia, andiamo in Romania, andiamo col pullman in Jugoslavia, in ex Jugoslavia, dove vogliamo, e giriamo la scena lì. Poi torniamo, la scena della sparatoria è avvenuta in un altro paese, e torniamo qua a finire il film. Cioè, mi sembra un po' ridicola la cosa dopo. Io non sono del mestiere, quindi non... Cioè, l'immaginario duello del film. Si fronteggia a mezzogiorno sulla strada principale, al momento dell'estrazione però si va a girare in ex Jugoslavia e poi si torna con il morto per terra. Col pulmino. È un'idea. Silvano, buongiorno. Silvano è caduto, ci fermiamo un istante. Informazioni del traffico, poi riprendiamo con Stefano Balassone. Melog, cronache meridiane. Questa è una scena audio tratta dai Magnifici Sette. Immaginate se a norma delle leggi proposte dal Ministero degli Interni avessero avuto la Jaguar Matic, mitica pistola finta di plastica degli anni 70 e 80. Luciana, buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, andiamo al punto. Allora, questo, se queste armi non hanno mai provocato morti, queste armi vere e non vere, perché un legislatore che si nasconde sempre dietro al nome di legislatore e fa perdere tempo, denari, questa trasmissione, perché io vi seguo tantissimo, ma insomma voglio dire, ci sono motivi ben più pesanti oggi. Raccogliamo dalla realtà quello che accade, oggi questo è un argomento secondo me importante. Mi chiedo, c'è mai stato un morto che abbia fatto scattare il legislatore e dire ok, allora queste armi sono pericolose, facciamo qualcosa. Ma le armi sparano a salve, sembra. Le armi sparano a salve comunque. Esatto, ma allora perché? Io mi chiedo perché. Adesso, allora, abbiamo Stefano Balassone, ricordo, segretario dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive. Allora, un ascoltatore mi scrive, non ci sono argomenti più interessanti. Facendo una proiezione, Stefano, ammesso non ci fosse stata questa proroga, quale sarebbe stata la ricaduta in realtà sull'occupazione e sul mercato della fiction dell'audiovisivo? Solo in questo momento 8 film in lavorazione che avrebbero dovuto interrompere le lavorazioni, e anzi, siccome ci sono stati 4 giorni di mancata in cui la proroga non era ancora in vigore, è già accaduto, sono 8 film, tra cui 007, che aveva scelto di essere venuto a girare in Italia, che attirato da molti incentivi, oltre che dalle location della città di Roma, sarebbero stati fermati. Considerate una settantina di persone per ogni troupe coinvolta e fate voi il conto. E siamo già ci avremmo dovuto dire alla produzione dell'ultimo 007, scusate, in Italia non possiamo usare le armi, quindi è inutile. Sì, che... appunto, insomma, e se poi questa cosa non fosse stata, come dire, rimediata, noi avremmo avuto semplicemente tutti i produttori italiani che loro stessi per primi avrebbero cominciato a riportare all'estero la realizzazione delle produzioni, sia di fiction che di cinema. Perché al momento, perché, diciamo, dell'emanazione della legge si rischiava, perché è un reato usare quelle armi se non erano più considerate. No, ma gli armieri che sono poi 4-5 ditte, cioè il problema, voglio sottolineare, il problema dell'occupazione non stava nelle ditte delle armi di scena, che sono poche persone. No, le ditte del cinema. Ma tutta la catena produttiva della produzione. Fermare una produzione è come, fermare, che ne so, uno stabilimento siderurgico decidendo solo in Italia che il ferro deve essere lucido prima di essere introdotto nelle lavorazioni. Sentiamo Mattia, che è un esperto del settore, ci ha chiamato. Mattia, buongiorno. Eccomi qua. Lei è un armaiolo? Buongiorno, mi sentite? Sì, la sento, Mattia. Un armaiolo, Mattia? Sì. Pronto? Un secondo, Eccomi qua. Sono. Sì. Mi occupo della vendita e della trazione di armi. Sento un rumore di sottofondo, stai in un posto rumoroso, dove sta? No, sono in macchina, un secondo, allora mi sente? Ecco, era le frecce, era le doppie frecce. Allora, sì. Dica esattamente il suo punto di vista, per quello che sa lei, secondo il suo mestiere. Allora, le armi di scena sono leggermente diverse dalle armi a salve. Il problema della norma è che la norma italiana è un po' confusa in questo caso. Per esempio, le armi a salve 9 mm di solito vanno denunciate, mentre quelle 8 mm no. La norma, diciamo, la nuova normativa tentava di regolarizzare tutte queste tipo di armi, comprese quelle di scena. Ah, quindi sono entrati in una norma che riguardava altri tipi di armi, le armi, diciamo, a salve. Che si vede, le repliche, diciamo, delle armi vere, che però sono improponibili in un film, anche se sono simili, hanno il tappo rosso, si capisce che sono tarocche. Esatto, mentre le armi di scena hanno diciamo, il foro della canna che sembra vero. E il fatto è che le persone che si occupano di questa norma di solito non sono competenti in materia. E quindi hanno fatto di tutta erba un fascio. Esatto. La meccanica delle armi di scena è leggermente differente dalle armi vere e le preclude il fatto che vengano utilizzate munizioni... Questo è importante, dica lei. È impossibile che un'arma di scena possa essere ricaricata con munizionamento normale usata per offendere. Allora... è impossibile che venga utilizzata con un munizionamento vero, ovviamente può essere modificata per guardi, in internet con le stampanti a 3D hanno creato una pistola di plastica che funziona, che non può scaricarsi dalla rete, farsela con la stampante e spararci, quindi al crimine non c'è mai limite, ma è più facile costruirsela tutto sommato forse che modificarsela. Guardi, io mi sono occupato di armi di scena e le posso dire che fare una modificare un'arma di scena è un lavoro non da poco, non è un lavoro artigianale che si può fare a casa, è un lavoro che va fatto con delle macchine a controllo numerico e in una determinata maniera, se no si crea solo uno strumento per farsi male. Stefano Ballastone, mi sembra importante quello che ci ha detto l'esperto, che comunque l'arma di scena... è stato precisissimo, ha colto il centro della questione, diciamo adesso il ministero, l'attuale ministero dell'interno, ci sembra che abbia capito il nocciolo della questione anch'esso. Ho anche capito il meccanismo, hanno messo insieme le armi di scena ad armi che non c'entravano nulla. Ma è quando una burocrazia, come è accaduto anni fa, viene lanciata alla cieca e allora procede per analogie che determinano situazioni paradossali. Quindi poi per smontare il paradosso naturalmente ci vuole pazienza e molta una mia malizia finale, Stefano, non ci vedi anche un po' il desiderio di ammantarsi una sorta di aura di buonismo generalizzato, dice facciamo i film senza armi, che già vedo degli ascoltatori che scrivono facciamo i film senza armi, la violenza, ragazzi, la rappresentazione della realtà deve essere realistica, se no andate a vedere Biancaneve e i Sette Nani, dove comunque ci sono scene molto trucidi, avvelenamenti, sgozzamenti, uccisioni. Beh, io ero un bambino fortemente spaventato dalla strega cattiva di Biancaneve e i Sette Nani, eppure essa non aveva un una K47 a tracollo. Ma tu ce la vedi questa accezione, voler dire facciamo qualcosa sull'onda lunga di Siamo Tutti Buoni? Oddio, diciamo, qualcuno che avendo bevuto un po' a cena si lancia in un'affermazione del genere ci sarà sempre. In questo caso vedo proprio una burocrazia che è inciampata nei lacci delle proprie scarpe. Grazie Stefano Balassone, grazie anche Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, alla prossima. Ciao.